fermami qui, via. Non so se meglio dormo. Il piccioncaccio! Io sento gente, entriamo, entro, Barbarina. Vedo qui una donna, ahimè, meschina. Inganno, a te capello che nell'ombra vigio parmi, Susanna. E se conti ora vieni, Susanna.